24 mattino. Buongiorno, buongiorno da Giulia Crivelli, benvenuti a 24 mattino, un saluto a Alessandro che magari ci sta ascoltando da qualche parte, che ritroverete naturalmente settimana prossima. Oggi abbiamo due ospiti, come sempre Angelo Maria Perrino, direttore di affariitaliani.it. Buongiorno. E Luisella Costamagna, che scrive, una giornalista, scrive anche per Il Fatto Quotidiano, e tra l'altro oggi ho visto già il tuo articolo, ecco. E quindi ti chiederò poi, ma insomma sono buongiorno a tutti. Buongiorno Luisella, che insomma effettivamente sei e mezza già pronti qui a rispondere alle nostre sollecitazioni. Tra l'altro invito anche gli ascoltatori, che a loro volta fossero già svegli facendo il ponte o non il ponte, a mandarci dei messaggi al 349-238-6666 o SMS o WhatsApp. Dobbiamo parlare per forza di questa crisi di governo, perché forse si potrà fare come la Spagna o come il Belgio l'anno prima, stare senza governo, ma non è in realtà, credo, auspicabile. Quindi prima si risolve questa crisi, credo, meglio è. La prima cosa che vorrei chiedervi, prendo spunto da questo titolo che mi sembra che riassuma bene la situazione, perché credo che debba passare il messaggio che ci sono dei vincoli tecnici, non è così facile, come ha detto Salvini, andremo in piazza se non si va a votare, ma non è così facile tecnicamente andare a votare. Per esempio su Italia Oggi Claudio Petruccioli titola: Mattarella deve fare l'arbitro, ma la consulta l'ha privato del fischietto per ben 48 giorni, sarebbe la distanza che ci separa da quel famoso 24 gennaio in cui la Corte Costituzionale dirà se l'Italicum, la legge elettorale, va bene o no. Voi cosa ne pensate? Cioè ci potrebbe essere, ci stanno raccontando un po' ognuno la sua, o in effetti ci sono questi vincoli tecnici ed è bene ripeterli sempre per non cadere così negli slogan che sono sempre, insomma, il modo peggiore, penso, per comunicare dei politici con gli elettori. Angelo, cosa pensi? Ma certamente, io ho già scritto subito dopo poche ore dal voto che ci eravamo infilati in un cul-de-sac. Tu hai parlato anche di gioco dell'oca, ho visto. Sì, esatto, sì. Sì. È un ritorno al punto di dalla casella di partenza, tornerà tutto a Renzi alla fine, credo che gli chiederanno di restare perché non esiste possibilità alternativa a mio avviso. Un cul-de-sac lo stesso che si era determinato ai tempi della sostituzione necessaria di Napolitano al Quirinale, che poi non fu possibile per mancanza dei numeri in Parlamento. Renzi è l'unico che ha in mano il mazzo e dà le carte, e questo vincolo esterno, appunto, della mancanza della legge elettorale, della necessità di farla, è un assist per lui straordinario. Ecco Luisella, tu poi insomma il titolo del tuo articolo è Renzi non molla, una batosta non gli basta, quindi secondo te c'è una, Angelo parla di un cul-de-sac, secondo te invece c'è una chiara volontà di Renzi di approfittare di questa situazione e che ne dica di ricevere questo secondo incarico da Mattarella? Luisella. Secondo me c'è una chiara volontà di Renzi e di tutto il sistema di potere che l'ha messo lì, come disse Marchion nell'ottobre del 2014, a farlo restare ancora lì aggrappato alla poltrona, nel senso che anche la decisione della consulta, cioè bisogna, il problema di questo paese secondo me è la mancanza di memoria. La consulta doveva pronunciarsi a ottobre, poi il referendum è stato posticipato a dicembre, irresponsabilmente tutte le decisioni sono state rimandate dopo il referendum, e adesso guarda caso si dilaziona ancora di più il trapasso di Renzi e del suo governo, che ci lascia davvero macerie, perché questa è la situazione sociale del paese, al 24 di gennaio. Allora io credo che adesso ci sia anche da parte dei giornaloni cosiddetti l'intenzione di farci digerire un reincarico a Matteo Renzi che è assolutamente fuori da qualunque pudore, nel senso che sarebbe davvero una follia, non credo che lui abbia tutta l'intenzione di restare. Sentiamo cosa ha detto, perché lui in realtà ha questa fantomatica ipotesi di un governo con tutti i partiti, questo è quello che a parole appunto gli abbiamo sentito dire. Sentiamo proprio le sue parole. Dall'altro lato, se invece vogliono un nuovo governo che affronti la legge elettorale, ma anche gli appuntamenti internazionali rilevanti che abbiamo in questo 2017, Il PD è consapevole della propria responsabilità e dunque anche gli altri partiti devono caricarsi il peso, almeno in parte. Ecco, caricarsi il peso almeno in parte. Voi, secondo voi è fantapolitica questa di un governo appunto fatto da opposizione e sì. Angelo? Assolutamente impossibile, era appunto una delle alternative che io avevo eliminato nel parlare di gioco dell'oca. Renzi sa benissimo che il centrodestra non parla lo stesso linguaggio, Salvini e Berlusconi sono molto distanti. Berlusconi più possibilista, come sempre, Salvini e la Meloni vogliono votare, quindi di là non c'è partita, non c'è gioco. E quindi Renzi in sostanza ha fatto un discorso per dire io vado a giocare alla PlayStation, tanto poi dovranno richiamarmi. L'ha detto davvero poi, veramente l'ha detto più o meno. E questo è il meccanismo, non vedo alternative possibili, il resto mi sembra emotività post-elettorale, desideri alternativi. Sono d'accordo con Luisella che il quadro è questo. Non sarei così catastrofico sull'operato di Renzi. Da italiano cerco di individuare una possibile soluzione, perché comunque un governo dobbiamo darcelo, e non vedo al momento alternative possibili se non... Non riesco a vederne altri, non si può che andare avanti con Renzi se vogliamo un governo. Tu, Luisella, tra l'altro ti segnalo che due ascoltatori, uno ti chiama mitica e l'altra grandissima, quindi sono molto contenti di averti con noi oggi. Insulti anche, guarda. Però dopodiché, allora, ascoltare le parole di Renzi è veramente ormai una follia, nel senso che sappiamo benissimo che le sue parole non hanno nessun valore, dal Enrico stai sereno, andrò a Palazzo Chigi con... solo passando attraverso le urne lascerò la politica, quindi che lui dia indicazioni, esattamente come adesso, i dubbi di Renzi sul reincarico, lui non vorrebbe assolutamente, in realtà sta facendo di tutto e noi non dobbiamo cascarci con tutte le scarpe, che se vuole tornare a Palazzo Chigi. Allora, questa cosa dei paletti, cioè noi dobbiamo aspettare la consulta che giudicherà l'Italicum, peraltro anche questo fa parte del giudizio catastrofico, non lo do io sul governo Renzi, a parte che l'hanno dato gli italiani votando il 60% no, perché questo è stato un voto politico anche di giudizio sul governo, ma ce lo dicono i dati, ce lo dice la disoccupazione nel nostro paese, ci dice anche che tutti i compagni di iattura, li chiamerei, che ci hanno accompagnato nel pre-referendum dicendo che ci sarebbero stati disastri, vengono smentiti dalla borsa ad esempio di Milano, che cresce esattamente come negli Stati Uniti, il Dow Jones, come sai benissimo, sì, macina record su record, e così la borsa di Londra. Dopodiché dobbiamo aspettare, siamo in un cul-de-sac creato da questo governo che si è fatto bocciare la riforma costituzionale, la legge elettorale con ogni probabilità della consulta, aspettiamo il responso della consulta, dopodiché vedremo nel merito cosa boccerà, ma si può mantenere il governo attuale per l'ordinaria amministrazione, andare tranquillamente al voto in primavera aggiustando, non è che se fosse caduto il governo Renzi con la bocciatura del Porcellum avremmo posticipato per avere una nuova legge elettorale. Ma sulla base della sentenza della consulta, boccia il ballottaggio, si va al voto con la legge elettorale che resta e con un Mattarello emendato. Esattamente quello che dice Luisella è ciò che dico io, cioè lei sta dicendo che resta Renzi per l'ordinaria amministrazione Renzi fa le elezioni. Io non credo che sia l'ordinaria amministrazione, no, cioè certo, lui ha appunto l'interesse di posticipare fino al 2018, incassare il vitalizio di tutti, che sappiamo arriverà con la metà settembre. Però io, quello che tu confermi Renzi, che non c'è un'alternativa a Renzi, mi pare di capire le tue parole. No, confermo che invece l'unica alternativa che mi sembra più chiara, il Mattarella non può dare un mandato a tempo, perché questo è incostituzionale, può dare un segnale chiarissimo mettendo il presidente Grasso, un governo istituzionale. Scusa, hai detto prima che invece restava Renzi? Cioè, hai detto che restava sì, Renzi. No, mi sembra di capire che Luisella crede che resterà Renzi, ma che l'alternativa potrebbe essere Grasso. Con i voti di chi? Con i voti di chi Grasso? Beh, Grasso è del PD. Di quelli che dimostreranno di rimettere a posto la legge elettorale dopo la consulta per andare al voto. Ma chi? Ma chi? È sempre il PD che ha la maggioranza, quindi Renzi in Parlamento. E quindi tutto da Renzi. Tocchiamo allora questo tema delle eliti interne del PD, perché anche un ascoltatore ci dice, perché si è fatta anche questa ipotesi che Renzi voglia fondare un suo partito, e quindi e questo ascoltatore dice sarebbe sicuramente meglio che quel covo di serpi che è il PD. Allora sentiamo un attimo Renzi con la famosa battuta di qualcuno che ha festeggiato con poco stile. So che tra di noi qualcuno ha festeggiato in modo prorompente e forse non elegantissimo questa decisione, del resto lo stile è come il coraggio di Don Abbondio. Ecco, lo stile è come il coraggio di Don Abbondio, cioè chi non ce l'ha non se lo può dare, questo si diceva di Don Abbondio. Quindi lo stile secondo PD, secondo Renzi, alcuni suoi compagni di partito non ce l'hanno. Voi toccavate il tema del possibile incarico a Grasso, che tecnicamente è del PD, formalmente è del PD, però sicuramente non è così sostenuto. Quindi ecco, quanto conteranno poi la resa dei conti all'interno del PD, che per ora non c'è stata, non è stata rimandata? Ripeto, se l'ipotesi Grasso deve nascere dalla delegazione del PD, che è il partito di maggioranza, quindi da Renzi. Se Renzi stabilisce che va bene Grasso, Grasso verrà designato. Se il PD non designa Grasso, chi lo designa? E comunque chiunque lo designa, se anche fossero tutti gli altri partiti, non basterebbe. Quindi è un'ipotesi impossibile, se non attraverso l'adesione di Renzi. Torniamo alla casella d'origine. Il ragionamento del direttore è che Renzi in realtà smentisce ancora una volta se stesso e sta facendo di tutto per restare, cosa esattamente io penso a pensare. Dopodiché anche in questo, anche nell'indicazione di Grasso, vediamo il Partito Democratico se ha davvero intenzione di modificare la legge elettorale per andare al voto, come in parte dice. E ancora una volta sentire le parole di Renzi, che dà lezioni di stile alla minoranza del suo partito, è ancora una volta una cosa che non sta né in cielo né in terra. Ma io vorrei dire, Renzi può dare lezioni di stile dire questo, di Parrucconi io, e di io non ho simpatie per Renzi, l'abbiamo detto altre volte in questa trasmissione, ho coniato io l'hashtag Renzi come una cicletta. Affari Italiani è sempre stato molto guardingo e molto severo con Renzi. Ciò detto, ripeto, la politica, diceva Aron, è inversamente proporzionale alla sociologia e viceversa. La politica richiede percorsi certi e dunque ci obbliga a essere logici nelle analisi. Non ci sono alternative, Renzi sa bene questo. Secondo me non ha ancora chiaro se andare alle elezioni subito o tirare avanti fino alla fine della legislatura, e su questo deve confrontarsi con il contesto e con Mattarella e con i suoi. Ma lui vuole restare a Palazzo Chigi perché se si vota vorrà fare lui le liste e caccerà tutti i suoi oppositori. Quindi tutto pure, questo non ci piace, tutto questo non ci piace, per carità. Io sto facendo un'analisi, non sto dicendo i miei desideri, non ci piace, però vedo che a fronte di un Renzi molto lucido, è un vero leader, ci piaccia o no, vedo intorno il vuoto, lo spezzettamento, il vuoto, le tifoserie. Luisella, adesso scusami, prima ti ho detto chi ti chiamava mitica, adesso naturalmente ti paragonano a D'Alema. No. Sì, no, a D'Alema. No, però io voglio chiedere al direttore, proprio perché è stato e siamo stati in pochi ad essere non renziani in questo periodo, perché adesso vedo tutti quelli che scendono dal carro del perdente, anche ci sono quelli che salgono sul carro del perdente, però diciamo che anche i giornali hanno avuto delle responsabilità nel narrare le magnifiche sorti e progressive del renzismo, fermo restando un'ora dopo dire ecco dove ha sbagliato Renzi. Ma io non capisco come una persona così intelligente come lei, direttore, dica esiste solo Renzi, senza di lui il diluvio. Ma perché gli italiani hanno per i numeri in Parlamento, i numeri, il cul de sac. Allora, siamo in un impasse. Dobbiamo rispettare il voto popolare. Gli italiani hanno detto in modo chiarissimo, perché la domanda che ci dovremmo fare in questo momento, ma se siamo in questa situazione adesso, ancora attaccati a Renzi, e cosa vuole fare il sistema di potere, ripeto, che l'ha messo lì, immaginatevi cosa sarebbe successo se avesse vinto o avesse perso 51 a 49. Ho capito, ma fatta questa premessa, che tu fai, qual è la conseguenza logica, cioè come costruisci un governo? La logica è che si può tranquillamente aspettare, ahimè, perché dobbiamo aspettare anche questa decisione 24 di gennaio, a fine gennaio della consulta in folle, okay. E quindi resteremo questa decisione, e dopodiché sulla base della nuova legge elettorale, che potrà essere disegnata da una bocciatura tout court o da una bocciatura parziale, peggiore dell'ipotesi però accettabile, ripeto, un governo istituzionale che quindi si occupi solo della legge elettorale, andare a voto in primavera, non ci sono alternative. Io sono convinta che si possa che fare. Dovesse riprendere il reincarico, io a questo punto davvero penso la gente scenderebbe per strada, perché che... con un 60-40, che è stato un giudizio nettissimo degli italiani su Renzi e il suo governo, non possiamo permetterci di dire senza di lui il diluvio è l'unico l'errore, che rappresenta. Aspetta, Angelo, aspetta. Di confondere i suoi desideri con la fattibilità del suo progetto. Quello che gli inglesi chiamano wishful thinking, cioè qualcosa che pensiamo quello che ci piacerebbe che fosse, ma come dicevo all'inizio, questi vincoli tecnici non sono così facilmente superabili. Ci fermiamo un attimo per il traffico e riprendiamo da qui. Come va, Matteo? E poi visitare i bambini all'allenamento. Ciao. Ciao. Eccolo, ieri questo era appunto Renzi a riposo, in attesa di, dopo aver parlato, dopo aver rassegnato ufficialmente le dimissioni, accettate con riserva da Mattarella, ieri si è dedicato alla famiglia. Luisella, io su tante cose posso anche essere d'accordo, ma tu proprio credi che non ci sia buona fede in quello che in niente di quello che dice Renzi? Cioè io che veramente abbia soltanto sia un grandissimo uomo di potere che sta giocando la sua partita a scacchi, io non so, forse sono un po' ingenua, ma spero ancora che alcuni dei suoi entusiasmi siano genuini quando dice e proclama di voler cambiare il paese. Io francamente quello che ho visto e quello che è il mio giudizio è un giudizio dopo peraltro 3 anni di governo, cioè ancora una volta, a parte l'autosmentita continua, cioè di aver detto una cosa, fatto delle promesse e fatto l'opposto, e dopodiché il giudizio che do su Renzi è sulla base, ripeto, di una situazione italiana, come ci testimoniano dalla Caritas, al Censi, alla disoccupazione. No, certo, sono i dati che metti nel tuo articolo. Lo sai meglio di me di qual è la situazione nel nostro paese, che abbiamo una disoccupazione all'11,6 contro l'8,3% del resto dell'Unione Europea. E in tutto questo lui, messo lì per fare le riforme, ha fatto la riforma costituzionale bocciata dagli italiani, quella elettorale sarà molto probabilmente bocciata la consulta, ha fatto la pubblica amministrazione, è stata bocciata la consulta, ha fatto il decreto sulle popolari sospeso dal Consiglio di Stato in attesa della probabile bocciatura della consulta per incostituzionalità, e nei fatti è stato nei fatti un disastro. L'unica cosa che ha fatto, ai noi, è il Jobs Act. Cioè, ecco, ha trasformato il mercato del lavoro in una giungla di voucher in cui chi ci ha guadagnato sono i tanti imprenditori. Ecco, Angelo, ecco, per bilanciare un po', perché sicuramente il Jobs Act di riforma del lavoro si è trattato, però come spesso si dice, magari a volte cambiare per cambiare non è esattamente la cosa migliore. È vero che il bilancio proprio numerico dice che gli occupati sono aumentati, se però si va a guardare c'è stata questa esplosione dei voucher. Però Angelo, appunto, rientro come occupato facendo un'ora di lavoro alla settimana. Ecco, però sulle unioni civili, per esempio, effettivamente direi che su questo io non ho ancora sentito nessuno che le unioni civili è stata una cosa molto apprezzata. Anzi, qualcuno dice che Renzi ha perso proprio, paga un prezzo a questa riforma che non è piaciuta al Vaticano, eccetera. Le leggi, le unioni civili, il dopo di noi sono state leggi assolutamente positive, dopodiché la vera battaglia di Renzi non è certo stata su quello, ma è su tutto il però resto. Io credo che in un paese come questo, Luisella, in un paese come questo credo che comunque sia stato un traguardo non da poco. Il bicchiere mezzo pieno, Gisella prende un pezzo del bicchiere, allora, e lo mette in fila, e certo viene un bilancio negativo, ma non può, non può essere vero tutto ciò. Renzi ha governato come forse difficilmente sarebbe stato possibile in un paese comunque in difficoltà come l'Italia, dove da 20 anni cerchiamo una possibilità di governo che non c'è, con un Partito Democratico ridotto così in quelle condizioni, con un centrodestra saltato per aria. Dunque, sempre per amore della verità, perché senza verità non c'è libertà, diceva Papa Wojtyla, noi dobbiamo fare le analisi giuste, le diagnosi giuste. E allora, non si può dire che Renzi ha fatto solo porcherie, è stato anche bravo a contrastare una serie di vecchi potentati. Ma quali potentati? È stato messo lì dai vecchi potentati, ma non ha scelto nessuno. Ma le democrazie si valutano sul giudizio che gli elettori danno del governo. Le leggi, l'unione civile fu fatto a ridosso del perché è stato tutto molto strumentale, a ridosso delle comunali per conquistare un voto a sinistra, questo è un dato di fatto. Peccato che poi sulle politiche economiche, cioè quelle che erano le risposte reali di cui questo paese ha bisogno, abbiamo avuto politiche di centrodestra. Però abbiamo avuto la realizzazione del programma sulla questione del voto dell'articolo 18, cioè sulla questione del voto popolare, però non attenzione. Ci facciamo intenerire dal leader d'accordo. Che è decaduto. Però attenzione a questa cosa del consenso popolare, perché se tu stessa dici questo 40%, che naturalmente nessun mezzo statistico può dirci esattamente com'è composto il 40% del sì, tu dici è stato un chiaro e il 60% di no è stata una chiara bocciatura diretta su Renzi. Avevamo detto la stessa cosa in un'altra elezione che non era un'elezione politica, cioè le europee, dove il PD aveva preso il 41%, e di quello tutti erano stati d'accordo che era non era un'elezione Giulia, politica, ma era stato Giulia, vorrei dire una cosa solo un secondo. Aspetta, Luisella, come me, laureata in filosofia, e ci piace la logica. Brava. Bene, se lei dice che il 60% indica che il popolo italiano non vuole più Renzi, con lo stesso argomento logico possiamo affermare che Renzi ha in mano il 40% dell'Italia. Che non è poco. Ma non è vero. Non solo, ma poi ci sono quelli che non hanno votato e nei quali si presume, Luigello, una parte sia con Renzi. Allora, se è vero la logica, no? Renzi c'ha un pacchetto di consenso nel paese straordinario e senza precedenti. Ecco, un'ultima cosa che volevo chiedervi. Aspetta, Luisella, dai, guarda, così raffreddiamo un po' questa discussione. Però c'è un altro punto che volevo proprio chiedervi, perché anche questo, io non ho mai fatto politica, però mi sorprende sempre effettivamente questi veleni che ci sono dietro. Oggi sul Fatto, in una pagina vicina a quella dove c'è il tuo articolo, che è a pagina, no, non vicinissima, il tuo articolo a pagina 17, questo è uno schemino fatto a pagina 5, e si chiama "Tradimenti e carriere interrotte, caro Matteo, ti hanno voluto bene". Ecco, a voi non fa effetto questo rapidissimo cambio di casacca? Sarà una cosa anche tipicamente italiana, però è sicuramente un po' triste, insomma, 3 giorni dal voto sembra già lo sciacallaggio. Ma questo è lo sport nazionale da sempre, no? Sì, anche i giornalisti, fino a un attimo prima del voto stavano tutti acquattati perché non si sapeva chi vinceva. Un attimo dopo l'esito delle urne hanno cominciato a sparare su Renzi, a dirne di anche tu, Luisella, insomma, prima hai detto i giornaloni. È una roba vergognosa, non c'era nei talk show, era imbarazzante, non c'era il ping pong, erano tutti contro Renzi. Adesso, siccome Renzi sembra che resti al governo, qualcuno comincia a dire, beh, però, insomma, veramente dobbiamo cercare l'analisi oggettiva, la diagnosi del medico, se vogliamo fare bene gli opinionisti. A te non fa effetto, un po', al di là della tua opinione su Renzi, che abbiamo capito è molto negativa, però questi veleni, appunto, che si sono scatenati, queste serpi, è brutta. A parte il costume italiano, è quello che dicevo prima, cioè ho visto il 99% dell'informazione italiana che si ha cantato il renzismo fino a ieri e poi lo molla. Non vorrei che però avvenisse il contrario, che è tipo il direttore